Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it. Le 8, 18 minuti e 40 secondi, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, bentornati alla terza parte di 24 Mattino, al microfono sempre Simone Spezia, lunedì 5 ottobre. Più avanti parleremo col presidente degli industriali farmaceutici, il presidente di Farmindustria Massimo Scaccabarozzi, per fare un po' un punto sul vaccino anti-influenzale e anche sul vaccino anti-Covid, per capire come va la ricerca. E poi ospiteremo il ministro dell'Ambiente Sergio Costa per parlare di quello che è successo nelle ultime ore nel nord-ovest dell'eterno problema del dissesto idrogeologico e delle alluvioni. Se volete intervenire 800 24 0024 per intervenire in diretta, appunto 349 238 6666 per i vostri WhatsApp audio, le vostre voci, gli SMS, i messaggi su WhatsApp. A quest'ora, come sempre, l'appuntamento col nostro Paolo Mieli. Caro Paolo, buongiorno. Buongiorno, eccoci qua, buongiorno. Eccoci qua. Ti faccio sentire, come prima cosa, direi, una voce, ed è una voce ben riconoscibile. Vediamo se la riconosco. Sentiamo. It's been a very interesting journey. I learned a lot about COVID. È stato un viaggio interessante, dice Donald Trump. Ho imparato tanto sul Covid, è stato come andare a scuola. Il presidente americano, che avevamo lasciato venerdì positivo al Covid, e ritroviamo questa mattina in giro in macchina a salutare la folla festante all'uscita dall'ospedale. Altro che positivo al Covid, poi si è scoperto che ce l'avevano un po' nascosto, che ha avuto pure la febbre, due volte gli hanno dovuto dare l'ossigeno, cioè non è un asintomatico. Bene, così era venerdì e domenica se n'è andata a spasso nei modi che tu hai raccontato. Io mi domando se è scemo, con tutto il rispetto che si deve a un capo di Stato straniero, perché per farsi vedere in forma, e poi in forma non è, si sente che ha la voce roca, e lui mette a rischio tutte le guardie del corpo, perché va in giro con un codazzo di guardie del corpo, e se una sola di queste guardie del corpo si prende il Covid, alla fine lo butteranno fuori a pedate, nel senso che ognuno ha diritto di fare quello che vuole finché non mette a rischio la vita degli altri. E guarda, ti faccio questo discorso perché va a pennello con la storia che sta appassionando tutta l'Italia della partita di calcio Juve-Napoli. Se due giocatori del Napoli sono stati contagiati dal Covid, come vale per te, per me e tutti coloro che li hanno incontrati, per 14 giorni devono stare in clausura, punto. Non è che si può fare, che cioè dice ma c'è un protocollo della Lega, e chi se ne importa il protocollo della Lega, sarà un protocollo fatto male, e così deve essere, perché non si può chiedere ai cittadini di fare grandi sacrifici, di rimettersi tutti la mascherina, e poi è chiaro, no, che la mascherina è solo un inizio, perché se dicono mettiamoci la mascherina, mandiamo l'esercito nelle strade, chiudiamo i bar alle 22 e ripristiniamo la conferenza della protezione civile alle 18, insomma qui le cose si mettono in maniera preoccupante. Non ci sarà un nuovo lockdown, io ci credo, ma insomma sarà una partita molto più dura di quello che si pensava. Sì. Quest'estate. Sì, sicuramente, guarda, Paolo, ti interrompo solamente per dare una cifra agli ascoltatori, perché poi noi ne abbiamo molti che ci scrivono: state facendo terrorismo, ci state preoccupando inutilmente. Io vi fornisco solamente questo dato. Un mese fa, al 4 settembre, i ricoverati in ospedale per Covid, quindi con sintomi, erano 1600. Ieri erano 3.280, sono raddoppiati in un mese. Ora, il che non vuol dire che no, spargiamo il terrore, semplicemente rispettiamo delle regole di prudenza che ci devono essere. Farei sentire agli ascoltatori anche la voce del direttore dell'ASL di Napoli, Verdoliva, se ce l'abbiamo, che così c'è un po' l'idea di qual è stata la decisione. Dobbiamo garantire la salute della collettività, quindi abbiamo applicato quello che in pandemia si fa, il contact tracing, cioè limitare, perimetrare per quanto più possibile il girovagare di persone che potenzialmente possono essere positive e quindi trasferire il contagio ad altri. È molto semplice, Paolo, è quello che dicevi tu. Hanno fatto quello che dicevi tu applicandolo ad una squadra di calcio e quindi gran rumore, però è così. Secondo me i dirigenti della Juve ieri sera dovevano trovare un'idea originale per far capire meglio che non stavano lì a inguattarsi quei tre punti e sorridendo, ma non lo so, perché dovevano fare uno sforzo di fantasia all'altezza. Secondo me non l'hanno fatto. E come sai, questa notte ci sono stati i tifosi juventini, sono abituati a difendersi sempre perché si sentono sempre al centro di una cospirazione mondiale, ma questa volta ho sentito i tifosi juventini perplessi. Comunque, insomma, fatti loro, e non sarà il calcio una delle nostre preoccupazioni. Ah, lo no. So, girano i soldi e tutte queste storie che... Però secondo me vengono prima la produzione, l'industria, il lavoro e la scuola. Poi sì, il calcio, se ne dobbiamo fare a meno perché sono stupidi questo... alcuni dei dirigenti del calcio, alcuni, non tutti. Sì, sì, quasi un discorso, allora... giusto, quasi un discorso da capo dello Stato, mi viene da dire. Allora, caro Paolo... È vero. Oggi, ma perché mi sono ispirato? Perché c'è stata l'enciclica del Papa d'Assisi, certo. A proposito di capi di Stato, parliamo di un collega, Papa Bergoglio. Sì, c'era pure il capo del governo. Lì che è andato anche lui a prendersi un po' d'applausi e ha fatto un'enciclica che resterà nella storia, pro i migranti, contro il dogma del mercato, contro il diritto di proprietà privata, perché ci deve essere un diritto di tutti per accedere all'uso di questa proprietà privata. Insomma, una delle encicliche più, non so come definirla, di sinistra, aperte, sì, progressiste. D'impianto non dico marxista, però molto molto progressista. Però purtroppo per lui, mentre ci sono tutti questi discorsi sulle proprietà, per quello che riguarda le proprietà del Vaticano, lì continua a esserci un inferno. Oggi è arrivata come protagonista, lo vedete sulla Verità, una signora sarda, anche lei. Che storia, Beccio, che storia Paolo, quella. Cecilia Marogna si presenta come nipote di Becciu. Io ho dubbio che sia nipote, se non altro perché lei è di una 39enne cagliaritana in Sardegna, cioè come la distanza fra Milano e Stoccolma, fra Sassari, vabbè, insomma, sono di... E lei teneva i rapporti con Flavio Carboni, la massoneria, ed entra a piedi dritti in questa storia che ha avuto poi nel weekend, e lì ti devo riconoscere che hai un fiuto veramente come nessun altro, che quei soldi, quando ti va detto, io sai che ti rimprovero sempre, ma quei soldi che partivano da Becciu e dal Vaticano e finivano in Australia, ti ricorderai che tu hai detto dubbio, non è che finivano a pagare in qualche modo, senza responsabilità diretta di Becciu, quelli che accusavano il cardinale Pell di pedofilia? Proprio così erano. Pare soldi almeno, così che, questo sostiene la Procura Vaticana, ipotizza anche questo. Ipotizza che quei soldi venivano, cioè i soldi della presi dalla carità, dall'8 per mille, finivano a pagare dei ragazzini che dovevano accusare il cardinale George Pell di averli palpati, i ragazzini del coro. Poi uno è morto e in punto di morte ha dichiarato che non era vero. Insomma, tanto è vero che il cardinale Pell poi alla fine è stato assolto per i pezzi, sì, ma dopo essere stato in carcere, poveraccio, ha avuto una vita straziata. Però che i soldi E secondo me, insomma, non mi permette di dar consiglio al Papa, stavo per dire una cosa, ma non la faccio. No, perché... no. Va bene, beh, siamo quattro a noi. Come scegli tu? Da capo di Stato a capo di Stato. Voglio dire che il Papa, quando fa questi discorsi sui destini della Terra e così, poi deve trovare in separata sede, quindi non in un'enciclica, un modo di dire la sua, con la sua voce, capisci, in modo che lo possiamo mandare in onda, anche su questa signora Cecilia Marogna, sul cardinale Pérez, sulla signora Marogna. Scrive un ascoltatore, scrive un ascoltatore dopo la nipote di Mubarak, ora la nipote di Becciu, non c'entra molto, cioè non sono, però è sempre, sempre storie di nipoti sono. Paolo, hai visto qualcos'altro in giro che ti ha incuriosito? Sì, ho visto, mi ha incuriosito una intervista di un europarlamentare della Lega molto acceso, come Borghi, Bagnai, sono di quelli antieuropeisti, che dice sulla Verità, virgolette, se la Merkel sterza a sinistra noi non si può andare nel PPE. Curiosa dichiarazione, perché non sapevamo che la Lega stesse andando nel PPE, e poi l'ipotesi è così bizzarra, tanto che uno pensa che un modo, che sia un modo per dire che stanno dirigendosi verso il PPE, che è la nuova strada indicata da Giorgetti, molto saggia, e che sta provocando tempesta nella Lega. Poi c'è l'altra tempesta, è quella dei 5 Stelle, quella la seguiamo tutti. Tu hai capito qualcosa di questa storia di Casaleggio? Ma guarda, io conosco tutti i più grandi spiegatori, esegeti del Movimento 5 Stelle. Gli ho detto, ma che significa se il Movimento 5 Stelle, come dice Casaleggio, diventa un partito? Cioè, cos'è la cosa facendo la quale tu hai la prova che è diventato un partito? E ti fanno dei discorsi vaghi sul direttorio. Sì. Insomma, ho capito che Casaleggio e Di Battista sono in urto con tutto il resto, ma penso Casaleggio poi è pure furibondo perché non gli danno più i soldi, hanno smesso di pagarlo, quindi ma non credo che lì, penso che l'ira sia più politica. Terza cosa che ho notato è che Gallera è tornato, lo ricordiamo, l'assessore alla sanità della Lombardia, e ha stretto un patto, una strizzata d'occhio al capo della campagna De Luca, ha detto guarda, noi qui i posti di letto ce l'abbiamo, se vuoi te li diamo. Grande abbraccio Gallera De Luca, due protagonisti dell'epoca della pandemia. Nello stesso tempo ha litigato con Sala, perché Sala vuole i vaccini anti-influenzali per i funzionari, mi sembra, adesso la semplifico, mi perdonino Gallera, Sala, De Luca, vuole i vaccini per i funzionari comunali, e Gallera dice no, noi li dobbiamo dare a quelli che hanno più di 60 anni, quindi litigata, perché poi Sala l'ha presa a male parole. Allora, poi è morto Kenzo. E questo mi è dispiaciuto. Però sono morti di Covid, per cui dove abbiamo aperto chiudiamo. Kenzo è un grandissimo stilista, un grandissimo personaggio, i disegni, i fiori, un gigante. E anche questo è un segnale che non è finita, ecco, non stiamo per voltare pagina. Ultima cosa, sono 10 anni di Instagram, tutti gli appassionati di Instagram oggi troveranno articoli sui 10 anni di Instagram. Grazie Paolo Mieri, ci risentiamo domani dopo il GR delle 8 come sempre. Grazie, Paolo, buona giornata. A domani, ciao. Una pausa, ci ritroviamo tra un attimo, parleremo appunto di vaccini e poi avremo ospite il ministro Costa. State ascoltando un programma offerto da Centro Software, il miglior ERP per il successo della tua impresa. Ascoltatore o ascoltatrice che chiede mezza parola sul nord-ovest distrutto, dico che oltre ad averne parlato in rassegna stampa abbiamo chiesto al ministro Sergio Costa, al ministro dell'ambiente, di intervenire, sarà con noi tra poco esattamente per parlare di questo, di dissesto idrogeologico, di alluvioni, di un problema che continuiamo a non riuscire a risolvere. All'ascoltatore invece che dice Spezia fatteli tutti tu i vaccini, dico lo trovassi il vaccino, in particolare quello contro l'influenza. C'è un problema di carenza su questo fronte, segnalato soprattutto dalle farmacie. C'è un problema di organizzazione. Per quanto l'anno scorso, nel 2019, le regioni distribuirono 12 milioni e mezzo di vaccini per l'influenza e quest'anno ne hanno acquisite quasi 18 milioni di dosi. E però, quest'anno la campagna vaccinale sarà più intensa del solito. Buongiorno a Massimo Scaccabarozzi, presidente di Farmindustria, benvenuto. Buongiorno a voi. Ai farmaceutici. Ci aiuta a capire cosa è successo quest'anno, Scaccabarozzi, perché, a parte che le campagne vaccinali in molte regioni non sono ancora proprio partite, però l'impressione è che un po' di disorganizzazione ci sia, ma a prescindere da questo, dal punto di vista produttivo, che cosa succede? Beh, allora, noi come tutti gli anni già ad aprile abbiamo cominciato a dire che era necessaria una programmazione, perché è bene che tutti sappiano che per produrre un vaccino non basta una notte come per fare una compressa, per produrre un vaccino ci vogliono mesi e mesi, perché i vaccini hanno dei meccanismi di produzione particolari con delle macchine che sono i bioreattori particolari e poi devono essere ipertestati per sicurezza ed efficacia. Poi che cosa è successo? Le regioni hanno fatto le prenotazioni, quest'anno c'è stato un incremento del 43% delle richieste e noi siamo stati in grado di soddisfare tutte queste richieste, anche perché devo dire che il piano vaccinale che lo Stato ha messo in atto è molto più ampio di quello dello scorso anno. Faccio solo un esempio: dello scorso anno la vaccinazione era messa a disposizione gratuitamente dallo Stato dai 65 anni in su e quest'anno invece parte dai 60, quindi tutti coloro che dai 60 ai 65 lo scorso anno dovevano fare l'acquisto privato, quest'anno è sufficiente che vanno dal loro medico di base e lo Stato gli garantirà la copertura vaccinale. Quindi da questo punto di vista è successo che c'è stata un'aumentata richiesta e questa richiesta è stata soddisfatta perché le regioni, chi più chi meno, chi si è mosso prima, chi si è mosso dopo, però stanno cominciando a ricevere i vaccini che avevano in qualche modo prenotato tramite gara. Sì. Tutto questo che cosa ha comportato? Che inizialmente ovviamente bisognava rispondere alle gare pubbliche e quindi le farmacie hanno lamentato una carenza di vaccini. È stato aperto un tavolo per far sì che questa carenza non ci fosse, intanto perché sì, bisogna garantire anche alle persone fuori dalle fasce protette di avere i vaccini. Questo tavolo stanno lavorando il Ministero della Salute, l'Agenzia del Farmaco, le regioni, le industrie, i farmacisti. E già una prima parte di vaccini alle farmacie sta arrivando perché le regioni hanno messo a disposizione una loro quota, ma vedo che le regioni stanno cercando di mettere a disposizione più quote perché probabilmente i 18 milioni di vaccino, così come è successo l'anno scorso, non saranno utilizzati tutti. Quindi, inoltre anche noi, quindi mi scusi Scaccabarozzi, non è preoccupante il fatto che le dosi acquistate finora dalle regioni non coprano integralmente le fasce di popolazione per le quali il vaccino è consigliato, cioè gli over 60 e i soggetti a rischio? Faccio un esempio perché stamattina abbiamo letto in rassegna stampa questo pezzo che ci parla della Lombardia, la quale è riuscita a ottenere 1.800.000 vaccini, ma solo gli over 60 in Lombardia sono 2.200.000 e quindi ne ballano 400.000 senza considerare i soggetti a rischio. Numeri come questi sono preoccupanti o no? Ma io credo di no, perché le regioni hanno fatto sicuramente una pianificazione sulle previsioni di vaccinazione. Ricordiamoci che anche gli altri anni raramente si raggiungeva il 50% della popolazione per cui era previsto. Quest'anno credo, almeno che le regioni, così dicono e quindi c'è da crederci, abbiano fatto una programmazione tenendo conto proprio del numero di persone che accederà, con un aumento ovviamente, perché credo che sia previsto addirittura un aumento a oltre il 70% della copertura. Poi è chiaro che non tutti ricorreranno alla vaccinazione perché non è obbligatoria, è raccomandata, quindi sappiamo benissimo che molti i vaccini non li faranno. Sì. Quindi credo che le regioni abbiano questo 43% di aumento che c'è stato sia dovuto proprio al fatto che abbiano già considerato questa pianificazione sulla base dei trend dello scorso anno. Sì. Degli scorsi anni. Sì, all'ascoltatrice che dice, perché poi molti ovviamente intervengono su questo, ci dice: guardi, in farmacia mi hanno detto che non ce l'hanno, che non ce l'avranno. A parte che è un po' presto, Scaccabarozzi. Bravissimo, no? Bravissimo. Allora, quest'anno con... Diciamo, no, lo dico, mi scusi, perché poi mi tocca, che l'ascoltatrice mi dice, io tra l'altro sono un soggetto a rischio anch'io, e mi hanno detto in farmacia che non ce l'hanno, però la campagna inizia più tardi, prego. Beh, allora, se l'ascoltatrice è un soggetto a rischio, il luogo giusto dove andare è dal medico di base, perché ha il vaccino per lei, perché lo Stato ha previsto che per i soggetti a rischio ci siano i vaccini, quindi ce li ha il medico di base, gli somministrerà il vaccino essendo un soggetto a rischio. Quest'anno, con la capibile paura del Covid, molti si sono rivolti alla richiesta del vaccino molto in anticipo, per cui i vaccini stanno arrivando, ci sarà questa coalizione vedrà che provvederà a far sì che tutti abbiano il vaccino, che richiedono anche nel circuito privato. Mi sento di dire una cosa da questo punto di vista. Io credo che nel circuito privato, avendo allargato le fasce di popolazione suggerita dal Ministero, e quindi che avranno il vaccino gratuitamente dallo Stato, saranno meno coloro che avranno bisogno del vaccino. Però chiedo una cosa, forse che è giusto dire a chi ci ascolta: se prenotate il vaccino in farmacia, fatelo in una sola farmacia, perché se lo fate in più farmacie, con la paura di rimanere senza, poi non aiuterete la distribuzione, magari qualcuno ne rimarrà sprovvisto. C'è questa volontà e sicuramente saranno trovati gli strumenti affinché tutti, nei tempi dovuti, e manca ancora un po' di tempo, possano avere il vaccino. Il ministro so che si è impegnato personalmente, quando lo faccio da credere. Quindi lei è convinto che ci sarà per tutti, per chi lo deve fare il vaccino? Sì, credo di sì, anche perché, ripeto, per tutte le fasce a rischio, per tutte le fasce raccomandate dallo Stato, le aziende hanno risposto alle gare, quindi manterranno fede alle gare regionali fornendo quello che è stato richiesto. Nel caso vi fosse una necessità maggiore, l'industria è in grado di supplire, o c'è in questo momento carenza, perché ovviamente non siamo i soli, non siamo il solo paese del mondo che sta chiedendo una maggiore quantità di anti-influenzale? Certo, era il motivo per cui io già ad aprile continuavo a dire programmate in Italia, perché altri paesi si erano già mossi, ma anche da questo punto di vista c'è una collaborazione europea, perché se per caso in altri paesi che ci sono già mossi, le aziende capiranno che ci saranno non un completo utilizzo dei vaccini richiesti per gli altri paesi, li metteranno a disposizione assolutamente dei paesi in cui c'è la richiesta. Quindi anche da questo punto di vista le aziende stanno monitorando per capire bene quanto potrà essere reso disponibile. Tenga presente una cosa: molti mi dicono, ma perché non li producete oggi? Perché se cominciamo a produrli oggi saranno disponibili fra 4-6 mesi, quindi le produzioni sono state fatte 4-6 mesi fa, e oggi, tenendo conto dell'incremento che ci sarebbe stato, quindi io sono convinto che i vaccini ci saranno e arriveranno a tempo debito per tutti, con gli sforzi che si stanno facendo. Quindi darei un segnale di, non dico di tranquillità, ma però non mandiamo nel panico le persone, perché credo che sia importante in questo momento stare tranquilli, perché già il Covid ci ha messo a dura prova. Sì. La ringrazio, Massimo Scaccabarozzi, poi magari la richiameremo qualche volta per parlare invece dell'avanzamento del vaccino anti-Covid, che è l'altro fronte. Grazie, Presidente di Farmindustria, grazie per essere stato con noi. Saluto Sergio Costa, Ministro dell'Ambiente. Buongiorno, Ministro, bentornato ai nostri microfoni. Grazie, eccoci. Buongiorno qua a lei e a tutti gli ascoltatori, buongiorno. 108 comuni piemontesi che sono stati danneggiati, senza contare quelli liguri. E ancora una volta le vittime, e ancora una volta le strade di fango, ancora una volta i ponti crollati. Ministro, c'è un problema storico di questo paese che ha a che fare con il dissesto idrogeologico. Quando ci sono fenomeni estremi come quello che abbiamo visto negli scorsi giorni nel nord-ovest, lo verifichiamo particolarmente, e però c'è, e non so come dirle, sembra di essere in un ciclo infinito, perché in ogni autunno, in ogni primavera, in ogni estate ci ritroviamo in questa condizione e vediamo che non se ne riesce ad uscire. Soldi non spesi, soldi per il dissesto che non vengono spesi. Ci dà un'idea di quello che si può fare ora? Intanto, appunto, le do qualche dato. Noi sappiamo che l'Italia ha poco più del 90% dei comuni fragili dal punto di vista del dissesto idrogeologico, e quasi l'80% del territorio italiano è appunto a rischio. Questi dati ci fanno intanto fare una riflessione: è un problema serio dell'Italia, non è un contorno, un problema di contorno. Allora, primo elemento, I fondi ci sono, lei l'ha detto, io glielo confermo. In questo momento in cassa, quindi senza il recovery plan, stiamo parlando di circa 7 miliardi a disposizione. Per poterli spendere in questo momento c'è una necessità di progettazione che nasce in sede comunale, perché c'è il concetto di prossimità territoriale, il comune conosce il suo territorio, conosce le fragilità, inserito in un piano più ampio del di distretto idrografico, che viene vidimato poi dalla regione competente e poi finisce sul tavolo del finanziamento. Però diamo per acquisito un fatto: i fondi ci sono. Sì. Se quindi i fondi ci sono e non c'è ovviamente l'interesse contrapposto da parte del comune e della regione, tutti vogliono risolvere il problema, vuol dire che ci sta l'acce e l'acciuolo di natura amministrativo-burocratica che impediscono la spesa, come lei ha detto inizialmente. E questo è il dato sul quale bisogna intervenire. Bene, il decreto legge, oggi legge semplificazione, fortunatamente, ma è di agosto di quest'anno, fortunatamente già interviene per rompere questi meccanismi burocratici e per sveltire le procedure comunali, regionali e quelle ovviamente di finanziamento. E questo però è chiaro che essendo di agosto c'è un tempo tecnico di ricaduta materiale. Sì. Poi c'è l'altro tema. I comuni che sono aggrediti dal dissesto idrogeologico. Con che tempi, diventerà operativa, ministro, questa parte del decreto semplificazioni? Perché noi abbiamo il solito problema, variamo un decreto, ma ci vogliono poi gli attuativi, le strutture vanno informate, eccetera, eccetera. Che tempi di operatività? Molto veloci, mi spiego. Alcuni sono autoattuativi, diciamo, per intenderci, cioè si applicano immediatamente. Altri con decreti che già in tema di preparazione del decreto legge sono stati costruiti insieme alle regioni. Quindi questo sarei abbastanza ottimista. È chiaro che poi la ricaduta tecnica rispetto alla procedura amministrativa va misurata nei mesi. Però intanto finalmente, viva Dio, si è partito. C'è l'altro aspetto. Però, come le dicevo, i comuni, ci faccia caso, quasi sempre i comuni che sono aggrediti dal dissesto idrogeologico sono comuni della dorsale appenninica o delle Alpi, ma sono comuni piccini, non sono i grandi comuni che hanno uffici tecnici robusti, costruiti per fare grosse e importanti progettazioni, e quindi si trovano anche in difficoltà di progettazione, cioè conoscono il territorio ma si muovono con più difficoltà. Bene, in questo caso allora il Ministero dell'Ambiente dice: io ti metto a te comune a disposizione la mia struttura, la mia società in house, che è la Sogesid di ingegneria progettuale ambientale, che ti dà una mano, ti si affianca lì dove tu ovviamente me lo chiedi, hai questa necessità, in modo tale che non sei lasciato solo. Sì. Senta, ministro, su questo fronte non è stato un errore smantellare, come fece all'inizio di questa esperienza governativa, la struttura di Italia Sicura, quella voluta presso Palazzo Chigi dal governo presieduto da Matteo Renzi e che aveva anche un compito di coordinamento di questo tipo, di gestione dei rapporti tra regioni e comuni e anche di aiuto nella progettazione? A mio parere no, le spiego anche tecnicamente perché. Perché quella struttura che ha lavorato bene, ma lavora nell'ultimo, ha lavorato nel cosiddetto ultimo miglio rispetto a tutto il lavoro che già faceva il Ministero dell'Ambiente. Se le devo dare una percentuale, il Ministero dell'Ambiente faceva tutta la base, tanto è vero che c'era una direzione generale specializzata in questo, che era un 80-85%, l'ultimo miglio lo faceva la struttura di missione. Allora a quel punto, ricondotto tutto al Ministero dell'Ambiente, rinforzato il Ministero dell'Ambiente e la struttura ingegneristica di cui le ho detto prima, adesso chiaramente c'è un rapporto molto più veloce, a mio parere. Ma effettivamente noi abbiamo un confronto continuo sia con le regioni sia con i comuni su questi argomenti. Peraltro abbiamo ristrutturato il Ministero dell'Ambiente proprio per far fare una direzione generale, quindi i super specialisti, solo l'argomento dissesto idrogeologico, togliendo tutto il resto che prima negli anni precedenti c'era. A suo giudizio, ministro, entro questi 7 miliardi, entro quanto si potrebbero cantierare? Guardi, è proprio il tema della progettazione, lei l'ha detto, cantierare. Ora, la questione è passare dalla famosa progettazione di base, quella che è preliminare, alla definitiva, all'esecutiva. E la tecnicità è proprio questa. Peraltro, proprio per aiutare, quindi ancora più veloci, noi abbiamo già definito un quadro politico nel quale dare ai comuni un anticipo anche di risorse per poter consentire a questi comuni di poter cantierare ben prima questi interventi, perché il rischio qual è? Sa, poi fai il progetto, fai tutto e poi non lo riesci materialmente a cantierare perché non hai avuto l'anticipo di risorse. Sono banalità, tragicamente banalità amministrative, perché la voglia c'è da parte di tutti e veramente le assicuro non c'è colore appartenenza, qui non esiste una regione di un colore o di un altro in questo, tutti siamo dalla stessa via. Finalmente però il treno sta partendo, viva Dio. Certo, si poteva pensare tanti anni fa, ok, si poteva pensare tanti anni fa, però adesso si sta mettendo mano finalmente. Abbiamo ancora un paio di minuti, Ministro, ed è per una cosa che ancora una volta la riguarda, il cosiddetto disegno di legge Terra Mia, che doveva essere approvato addirittura dal Consiglio dei Ministri di questa sera, inizialmente, almeno questa era l'ipotesi, quello che avevamo letto. Si prevede il DASPO ambientale per chi inquina, viene cambiato il codice penale in alcune parti e su questo c'è stata un'opposizione politica da parte del Partito Democratico, ci è sembrato di capire. I nodi quali sono e come contate di scioglierli? Allora, guardi, le confermo che doveva andare stasera, ma c'è bisogno di qualche piccola rifinitura ancora, quindi andrà, penso, avremo una riunione di maggioranza nei prossimi giorni, quindi diciamo penso che al Consiglio dei Ministri la settimana successiva. Però il tema qual è? Se lei ricorda, già c'è una legge, la cosiddetta legge sugli ecodelitti del 2015, che ha funzionato bene, e io l'ho applicata da generale, quindi da investigatore, c'è bisogno di tagliandarla, perché proprio io che la conosco fino in fondo ho verificato che in alcuni casi inciampava quella legge, quindi è una sorta di ecodelitti 2.0 e l'evoluzione non castiga, fortunatamente non entra nella logica del castighiamo tutti indipendentemente dall'inquinamento e dall'intervento ambientale, ma separiamo i criminali. Non è una legge manettara, come dice qualcuno. No, guardi, lo possiamo addirittura dimostrare proprio in atti giuridico-amministrativi, dove tutti quelli che vogliono risanare, anche perché magari ci hanno inciampato loro malgrado, vogliono risanare l'ambiente, sono addirittura aiutati a farlo. I criminali vengono trattati da criminali, viva Dio. Quindi che tempi per il DDL Terra Mia? Tra l'altro da napoletano ha scelto il nome di una canzone di Pino Daniele, il titolo di una canzone di Pino Daniele, non niente male. Certo. Che tempi quindi secondo lei per l'approvazione? Ma guardi, abbiamo questa riunione di maggioranza, stiamo facendo spiegando la norma fino in fondo, nel dettaglio, una norma robusta, complessa. Io credo che ragionevolmente nel giro di 10 giorni possa approdare al Consiglio dei Ministri, peraltro io ho già sentito gli altri componenti della maggioranza, semplicemente non c'è opposizione, vogliono capire fino in fondo giustamente. Quindi, nessuna tensione con Orlando si è spiegato, il vice segretario del PD era assolutamente convinto. Poi le dico di più, lui è stato il costruttore della precedente norma, è colui che l'ha vista da Ministro dell'Ambiente e Ministro della Giustizia, ho un rapporto dai tempi in cui ero generale, c'è un rapporto di stima, no, ma assolutamente, non, e non lo dico retoricamente, è proprio vero, persona di standing Andrea Orlando, assolutamente. Grazie Sergio Costa, Ministro dell'Ambiente, buona giornata, GR24, ci risentiamo domani mattina alle 6.30, Alessandro Marco Tulli, Gloria Guerrera, Giorgio De Luca in redazione, Peter Bescapere, regia naturalmente, Margherita Ine e Francesco Ceraffo, i nostri autori, ci risentiamo domani appunto alle 6.30, da Simone Spezia una buona giornata, ciao! Vuoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba, è l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio, ha quindi pieno valore legale, attivala adesso su aruba.it.